Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 28 settembre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, sempre su Liberi Dentro, Eduradio e TV. Io sono sempre Caterina con Antonella Cortese. Buongiorno Antonella. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti. Alla conduzione di questo programma, che come sapete ormai da un anno e mezzo fa da ponte tra il carcere e la città. E come sempre non siamo solo noi, ma ci sono anche i nostri collaboratori di rubrica, un programma esteso perché è esteso al carcere, alla cittadinanza e serve a fare da ponte dal periodo del Covid fino ad oggi, dove ancora il Covid imperversa, ma si cerca di attenuarlo con il vaccino in qualche modo, insomma cerchiamo di essere ponte per informarvi su quello che succede dal carcere e informare le persone detenute su quello che succede nella nostra città e nella nostra realtà sociale. E quindi oggi apro le notizie raccontandovi costa caro stare in carcere, un articolo di Attilio Bolzoni su Il Domani. Parliamo oggi di un aspetto che forse viene un po' sottovalutato quando parliamo di carcere, pensiamo alle pene, pensiamo alla solitudine delle persone detenute, al problema del lavoro, ma non pensiamo mai al problema del vitto e del sopravvitto. Pensate che vitto dal latino, il participio passato è victus, da vivere, ed è ciò che serve al nostro sostentamento, cioè serve a vivere. E il sopravvitto è un termine proprio usato solo per le carceri, ed è ciò che è supplementare, che è accordato in determinati casi, o nelle carceri, come anche nei collegi, anche per esempio in altre collettività, per permettersi di acquistare dei beni in più. E allora si chiede questo giornalista del Domani, come si può assicurare un menù di dignitosa qualità solo con 3,92 € al giorno? Forse la risposta sta in una spettacolare coincidenza, dice lui, ovvero chi fornisce il vitto al carcere fornisce anche il sopravvitto. E tanto per fare un esempio accaduto nel carcere di Rebibbia, 2 pacchi di caffè acquistati insieme in un'offerta speciale vengono a costare più di 2 pacchi di caffè acquistati separatamente. Quindi altro che convenienza, nel senso che in che modo si crea questa particolare coincidenza? Nel senso che sono i detenuti stessi a pagare questo sopravvitto attraverso un monopolio, diciamo, delle aziende scelte per la spesa all'interno del carcere, che vengono in realtà a costare molto di più di quello che sarebbe un costo in un normale supermercato. Caterina, mai avrei pensato che abitare in carcere, passatemi il termine, abitare in carcere fosse così dispendioso. Eh sì, abitare in carcere è molto dispendioso a livello di spese. Per i quasi 2.000 reclusi, per esempio, nel carcere di Rebibbia, dove è scoppiata da poco una protesta proprio sul sopravvitto, non c'è nulla di a buon mercato per mangiare in cella e ci vogliono sicuramente più soldi di quelli che servono fuori per farsi la spesa. Quindi sembra una condanna nella condanna. E quindi, scusami, la spesa in offerta, per modo di dire, del caffè ha solo innescato la miccia, di fatto, no? I malumori, un po' tutte le lamentele che stavano già montando ben prima dell'estate. Sì, la lamentela non riguardava il caffè e basta, ma anche tanti altri beni. Pensa soltanto, Antonella, alla salsiccia piena di coloranti, le uova a scadenza immediata, uno ne comprava 6 e scadevano il giorno dopo e scrivevano i detenuti non me le posso certo mangiare in un giorno solo. O i funghi olandesi che sanno di sughero, i rasoi da barba, i piatti di plastica o i cornetti da gelato a prezzi proibitivi. Si parla di una variazione in euro tra gli 1, 2 euro o 3 euro in più per ogni prodotto rispetto a come a quello che è il tesso tariffario fuori dal carcere in un supermercato invece alla tariffa all'interno del carcere. Ma a Rebibbia il malcontento dell'estate si è trasformato in qualcosa di più. Le persone recluse hanno inviato un paio di reclami ai magistrati di sorveglianza e al provveditore dell'amministrazione penitenziaria ed è stato recapitato anche un risultato di un'ispezione effettuata dagli agenti della polizia penitenziaria in 2 supermercati intorno a Rebibbia per capire se le persone detenute avessero ragione e di fatto avevano ragione. Senti, ma chi si occupa della questione? Ora della questione si vuole occupare Federconsumatori, che già un paio di anni fa era intervenuta sul caro vita a Rebibbia. Il presidente Emilio Viafora di Federconsumatori ha affermato: verificheremo se ci sono gli elementi per chiedere un accesso agli atti e poi sollevare la questione al Ministero della Giustizia. Non stiamo parlando di Totò Riina, ma di persone che finiscono in galera spesso per disperazione. Quindi, in conclusione, lo Stato spende per i 50.000 e passa detenuti italiani 3,92 € al giorno per il loro vitto. Ma non si mangia a sbafo. Bisogna chiarire questa cosa. Per legge ogni recluso deve corrispondere, quando uscirà, alla cosiddetta quota di mantenimento. Quindi per questo torniamo ad anello alla domanda iniziale dell'articolo citato: come si può assicurare un menù di dignitosa qualità a 3,92 € al giorno? Forse la risposta sta in questa fantomatica coincidenza: chi fornisce il vitto al carcere fornisce anche il sopravvitto, quindi la persona sempre detenuta. Ma adesso una canzone. È una canzone che parla di persone alla disperazione, anche di chi non ha niente, e Dalla a modo mio. A fra poco, ci rivediamo sempre su Liberi Dentro. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande. E se la vita non ha sogni, io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me. E rieccoci, bentornati dopo la pausa musicale. Antonella, per il nostro martedì in giro per il mondo andiamo in America. America del Sud. Sì, infatti, andiamo in America del Sud. Voglio citare uno scritto letterario. Lo sapete che ormai io comincio quasi sempre così. Vi leggo. Vedrai, a Cartagena ogni cosa è diversa. Questa solitudine senza tristezza, questo oceano incessante, questa immensa sensazione di essere arrivato. Questo lo scriveva Gabriel García Márquez, descrivendo la sua città adottiva. E è una sensazione tangibile che va assaporato con calma, questo lui ritiene sia Cartagena. Intanto Cartagena de Indias è una città della Colombia, come dicevamo, no? È una città del Sud America situata sulla costa nord del paese ed è la capitale del dipartimento di Bolívar, oltre ad essere la sesta città colombiana per popolazione. A prima vista Cartagena de Indias può apparire una città assolata, gaudente, nella sua perenne estate caraibica. E anche forse un po' troppo da cartolina, merito un po' delle case coloniali, dei balconi e dei prati fioriti, dei ristorantini di atmosfera, dei chiostri conventuali che sono stati del Seicento, tra l'altro, che sono stati trasformati in hotel e che sono stati in questo modo un po' conservati. Merito anche però dello spirito festaiolo dei suoi abitanti, i costeños, come si amano definire, che si sentono anche nell'anima più prossimo ai Caraibi che a Bogotà, che tra l'altro dista 1.000 chilometri da Cartagena. E Cartagena poi ha un passato recente di prosperità, che si può proprio sentire passeggiando per il centro storico, che tra l'altro è patrimonio UNESCO dal 1984, mangiando magari una repas mentre si cammina qua e là, che sono vendute dappertutto e sono delle frittelle, dei calzoni di farina di mais e formaggio, una delle cose tipiche proprio della cucina. E poi ci si può spingere anche fino al quartiere Getsemani, che era la parte più povera del centro storico, per leggere le storie dei coloratissimi murales, che sono delle vere e proprie opere d'arte che parlano delle persone, del barrio, che è appunto il quartiere dove queste persone vivono. Quindi Cartagena è una bella città coloniale e basta. Eh beh, Caterina, a prima vista sembrerebbe così, ma è una città molto complessa e accanto alla parte turistica di cui ho parlato finora convivono zone dove vivono le persone povere che sbarcano un po' il lunario. Infatti basta seguire un po' l'onda del ballo caraibico e ancora di più quella della cosiddetta ciampeta, che è questa danza, questa musica selvaggia che è molto molto africana, per capire quanto l'anima di Cartagena sia più complessa, perché è spagnola e coloniale, ma è anche molto india e nera. Infatti è abitata da meticci, che sono discendenti di amerindi e bianchi, mulatti, che sono discendenti di neri e bianchi, e zambos, discendenti di amerindi e neri. Facendo un salto nella storia, è stata sede del terzo tribunale dell'Inquisizione del Nuovo Mondo ed è l'unica città, insieme a Veracruz in Messico, a essere autorizzata al commercio e allo smaltimento degli schiavi verso le altre colonie, e impiegò i neri nella sua stessa costruzione, tra l'altro, e anche nella profanazione delle ricchissime tombe degli indios Zenu, come anche nella costruzione di edifici e fortezze. Esiste una Cartagena anche in Spagna, giusto Antonella? Sì, infatti quella colombiana si chiama Cartagena de Indias ed è stata fondata nel 1533 dagli spagnoli ed era al tempo uno dei tre porti strategici della Compagnia delle Indie Occidentali, insieme a San Juan de Puerto Rico e a La Habana. Torniamo però a Gabo. Gabo è il nome con cui affettuosamente veniva chiamato Gabriel García Márquez. C'è da dire che molti grandi scrittori della letteratura vengono ricordati per il loro stretto legame alle città. Per esempio Dickens con Londra, Pasolini oppure Gadda con Roma, Pessoa con Lisbona, Balzac con Parigi. Però lo scrittore che mi ha fatto veramente avvicinare alla Colombia, prima in realtà di aver avuto una cognata colombiana, infatti siamo andati al loro matrimonio, mio cognato ha sposato una ragazza colombiana, e senza dubbio io Cartagena l'ho scoperta grazie a Gabriel García Márquez. Infatti questa città ha fatto da scenario a una delle storie d'amore più belle della letteratura, più intense e appassionate, che è quella tra Florentino Ariza e Fermina Daza nel libro che si chiama L'amore ai tempi del colera, che è ispirato in realtà alla storia dei nonni dello scrittore, quindi a questo amore immenso tra i nonni. Ma la città e più che altro i suoi abitanti, che lui conobbe tra l'altro da giornalista della rivista L'Universal, sarà presente trasversalmente in quasi tutti i suoi scritti. Voglio lasciare a Gabo l'ultima parola su Cartagena nella sua biografia Vivere per raccontarla. Lui dice: mi bastò fare un passo dentro la cinta per vederla in tutta la sua grandezza, nella luce malva delle 6 del pomeriggio, e non mi fu possibile reprimere la sensazione di essere rinato. Quindi lasciamo Gabriel García Márquez per concederci una salsa, perché la salsa è appunto la musica tradizionale della Colombia, e sentiamo appunto Salsa Dancing in Cali. Aquí donde usted me ve, cámara, yo soy el negro más bravo, cámara. Aquí donde usted me ve, cámara, yo soy el negro más bravo, cámara. Yo no reconozco guapo, cámara, ni me dejo amenazar, cámara. A mí nadie puede decirme que yo estuve aquí primero, o que yo tengo dinero, o soy más blanco que tú, porque formo un 22 y con el sitio me quedo. Yo se lo digo, compa cámara, cámara qué rico, compa cámara, mira qué rico está, compa cámara, ay, qué ina, compa cámara, ajá, compa cámara, aquí donde usted me ve, cámara, yo soy un negro decente, mire que aquí donde usted me ve, cámara, yo soy un negro decente, cámara, yo sé respetar la gente, cámara, si respeto se merece, cámara, pero no digas sandeces, que eso sí que no lo aguanto, yo temprano me levanto. Para estar bien enterado y para el que no lo crea traigo el 20 tu formato. Yo se lo digo, compa cámara, queína, compa cámara, mira qué rico está, compa cámara, cámara, cámara, compa cámara. E rieccovi, bentornati a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici su Liberi Dentro Edu Radio TV. Oggi ho l'onore di non avere un ospite solo, ma tre ospiti, sono parte del gruppo della Trasgressione di Milano e in particolare presento subito Angelo Aparo, per tutti Iuri, psicoterapeuta di professione, che in carcere nel 1977 ha cominciato un'esperienza che è un qualcosa di veramente rivoluzionario, ancora oggi è in corso, ha inventato il gruppo della trasgressione al carcere di San Vittore, che tu oggi, Angelo, coordini ed è un'associazione che coinvolge reciprocamente detenuti comuni e cittadini. Un agone, diciamo, in cui il fine ultimo è quello di riflettere su se stessi e sul proprio passato. Ma raccontaci meglio tu. Lavoravo già da 18 anni in carcere e quindi vedevo i detenuti come nella norma lo psicologo parla con un detenuto. Questi colloqui fondamentalmente erano finalizzati a stilare delle relazioni che avevano il fine ultimo di permettere al giudice di decidere se il detenuto era, diciamo così, pronto per avere benefici di legge come permessi, affidamento sociale, eccetera. Però questo tipo di colloquio tra psicologo e detenuto è un colloquio decisamente superficiale, dove l'unica motivazione che ha il detenuto non è certo quella di farsi conoscere e tantomeno quella di riflettere su se stesso, ma è quella di convincere lo psicologo che lui è pronto per uscire. Quindi il gruppo è nato sulla base del mio desiderio di avere con i detenuti un rapporto più profondo, un rapporto in cui il detenuto fosse motivato a cercare se stesso, a cercare nella propria storia i passaggi, gli elementi che avevano fatto sì che a poco era diventato un delinquente, perché insomma di quello stiamo parlando. Dunque il gruppo della trasgressione è nato come un tavolo attorno al quale 20 detenuti che potevano parlare con un senso di libertà molto maggiore rispetto a quella che si vive nella comunicazione con lo psicologo, parlavano tra di sé, intervenivano quando ne avevano voglia, approfondivano nella misura in cui ne avevano voglia le vicende del loro passato, le loro relazioni affettive e i passaggi che gradualmente avevano fatto sì che un bel giorno si erano trovati a commettere un omicidio, una rapina, uno spaccio, eccetera, eccetera. Quindi il gruppo della trasgressione è nato così. Quello che questi detenuti dicevano e che scrivevano, io lo portavo all'università, dove insegnavo psicologia della devianza. Gli studenti, conquistati diciamo, da questi approfondimenti, a poco hanno chiesto di poter conoscere questi detenuti. E dopo quasi 5 anni che era nato il gruppo, nel 97, nel 2002 è accaduto che ho fatto un convegno al quale hanno partecipato una quarantina di studenti dell'allora corso di psicologia della devianza. Da quel giorno il gruppo è diventato non più di detenuti, ma di detenuti studenti. Grazie Angelo, e un momento di pausa musicale e ci rivediamo tra pochissimo. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Siamo con il gruppo della trasgressione al carcere San Vettore di Milano, un gruppo formatosi 24 anni fa e costituito da Angelo Aparo, che è qui con noi. E abbiamo illustrato un po' gli albori del progetto, ma siccome qui con me ci sono anche Adriano e Roberto, che sono due persone detenute, una con affidamento ai servizi sociali e un'altra con libertà condizionale, vorrei sapere da parte vostra, adesso chiedo ad Adriano, qual è stato il motivo scattante che ti ha fatto accettare di aderire a questo gruppo? Sì, ciao a tutti, io mi chiamo Adriano. Cosa ha fatto sì che ha scattato per entrare nel gruppo? Io per fortuna, dopo tantissimi anni, mi hanno portato nel carcere di Opera. E lì ho incontrato il dottor Aparo e il gruppo della trasgressione. Però per incontrare il dottor Aparo e il gruppo della trasgressione avevo incontrato prima in sezione un amico che già era da diversi anni, che era detenuto come me, però già faceva parte del gruppo della trasgressione. Nelle attività tipo palestra o quando scendevamo all'aria mi parlava molto del gruppo della trasgressione. All'epoca si stava facendo un convegno sul virus delle gioie corte, cioè quelle citazioni che poi duravano niente. E questa cosa mi affascinò, però già per strada, nel lontano 2005, io avevo perso mio padre per un infarto e comunque già da lì in me era scattato un qualcosa, però non avevo la forza di reagire, di prendere la mia vita nelle mani. Poi sono finito a carcere di Opera, ho conosciuto il dottor Aparo e da lì poi abbiamo iniziato man mano a risvegliare quella coscienza che aveva addormentato nel tempo. E allora invece una domanda che faccio a te, Roberto. Ho parlato all'inizio di questo gruppo che fa qualcosa di veramente rivoluzionario, come un agone in cui si riflette su se stessi e sulle scelte del passato. Ma si ha così tanta voglia di riflettere su se stessi quando si è racchiusi in quattro mura? O c'è solo della rabbia? Io ritengo che, almeno per quello che io ho recuperato con il gruppo della trasgressione, quindi analizzandoci nel tavolo delle riflessioni, quindi nel cercare di recuperare le nostre coscienze, perché non è che chi devia o chi commette omicidi come ho commesso io non ha una coscienza, la zittisce. Ma questa parola la sto usando con semplicità e la sto esponendo con tranquillità, non perché l'avevo in testa, ma perché l'ho recuperata appunto attraverso le riflessioni collettive. Quindi dal momento in cui tu vedi più persone osservando che consegnano le proprie fragilità al tavolo del gruppo della trasgressione, senza essere manomesse dall'autenticità di quello che si dice, viene sistematicamente a qualsiasi essere umano iniziare a consegnare un qualcosa. Ecco, e forse per me è stato l'inizio della mia autenticità, cioè il riconoscere le mie fragilità. Perché? Perché altri le avevano riconosciuti prima di me e comunque conseguentemente a me. Quindi questa cosa a me mi ha fatto in qualche modo iniziare a vivere una sorta di libertà mentale, anche se ero dentro la carcerazione, quindi fisicamente ero prigioniero. Però questo perché accade? Accade perché tu inizi ad abbandonare certi stereotipi di vita, che poi è una pseudo vita che ti sei costruito, quindi maschere, corazze, che ti permettono di, con la rabbia dura, con il rancore, con l'arroganza che tu hai appena nominato, ti permettono di sopravvivere alla detenzione. Roberto, grazie di cuore, ringrazio tutti voi e ci rivediamo domani per una nuova puntata. A presto. E siamo giunti anche adesso al momento dei saluti finali. Scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 2 40 126 Bologna per inviarci una posta con il servizio postale. E noi ci rivediamo tra pochissimo con le rubriche Oggi Parliamo Di alle ore 17 sia sull'Epida TV che su Teletricolore, e oggi abbiamo l'intervista a Ferruccio Laffi di Marzabotto in occasione delle giornate dal 29 al 5 ottobre in cui si ricordano le stragi di Marzabotto, le stragi di Montesole. Una buona giornata a tutti e un saluto da me, da Antonella Cortese, da Enea Flacco. Ciao, a domani. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.